Emma. Settima traccia. Quando la vanità opera in una testa debole, produce ogni sorta di malestri. Niente di più facile per una giovinetta che collocare troppo in alto le proprie aspettative. Può darsi il caso che Miss Harriet Smith non trovi tale affluenza di proposte di matrimonio, benché sia una ragazza molto carina. Gli uomini giudiziosi, dite pure ciò che volete, non vogliono mogli sciocche. Uomini di buona famiglia non sarebbero così vaghi di imparentarsi con una ragazza di sì oscuri natali, e la maggior parte degli uomini prudenti avrebbero paura della falsa posizione e del discredito a cui potrebbero andare incontro quando venisse a sapersi il mistero della sua nascita. Che sposi Robert Martin ed essa è al sicuro, rispettabile e felice per sempre. Ma se l'incoraggiate ad aspettarsi di fare un gran matrimonio, se le insegnate a non contentarsi di nulla meno d'un uomo importante e facoltoso, potrà rimanere ospite pagante di Miss Goddard per il resto della sua vita, o almeno, dal momento che Harriet Smith è destinata a sposarsi prima o poi, finché non diventi esasperata e sia lieta d'acchiappare il figlio del vecchio scrivano. La pensiamo in modo così diverso su questo punto, Mr. Knightley, che cercare di convincerci a vicenda non serve proprio a nulla. Non faremo che irritarci sempre di più. Ma che io la lasci sposare Robert Martin è impossibile. Gli ha detto di no, e in modo così deciso, credo, da impedire un nuovo approccio. Essa deve sopportare le conseguenze dell'averlo rifiutato, quali che possano essere. E quanto al rifiuto stesso, non pretenderò di sostenere di non avere un poco influito su di lei, ma vi assicuro che ben poco restava da fare a me o a chiunque altro. L'aspetto di Martin è talmente contro di lui e le sue maniere sono così cattive che se lei era mai stata disposta a vederlo di buon occhio, non lo è adesso. Posso immaginarmi che prima di vedere qualcuno superiore a lui, essa abbia potuto tollerarlo. Egli era il fratello delle sue amiche e si dette da fare per piacerle. E insomma, non avendo veduto alcuno migliore, codesto deve averlo soprattutto assistito, potrà averlo trovato non antipatico mentre essa era ospite al mulino dell'abbazia. Ma ora le cose sono cambiate. Ora lei sa come si han fatto i gentiluomini. E soltanto chi sia un gentiluomo d'educazione e di modi può trovar favore presso Harriet. Sciocchezze. Le più madornali sciocchezze che siano state mai dette, esclamò Mr. Knightley. I modi di Robert Martin hanno, a loro raccomandazione, giudizio, sincerità e bonarietà, e il suo animo ha più signorilità di quanto possa capire Harriet Smith. Emma non rispose e cercò di darsi un'aria allegra e disinvolta, ma in realtà si sentiva imbarazzata e non vedeva l'ora di andarsene. Non si pentiva di quel che aveva fatto. Ancora credeva d'essere un miglior giudice di quel che non potesse essere lui su una questione di diritto e di raffinamento femminili. Ma pure nutriva una sorta di abituale rispetto per il giudizio di lui in genere, che faceva sì che non le piacesse d'averlo così decisamente contro. E vederselo seduto di faccia incollerito era molto sgradevole. Passarono alcuni minuti di questo penoso silenzio, interrotto solo da un tentativo di Emma di parlare del tempo, a cui egli non fece seguito. Egli stava riflettendo. Il risultato delle sue riflessioni apparve infine in queste parole. Robert Martin non fa una gran perdita, purché possa persuadersene. e spero che non ci metterà molto a farlo. È meglio che vi teniate per voi i vostri piani per Ariel. Ma dal momento che non fate un segreto del vostro amore di combinare matrimoni, non si andrà lontani dal vero supponendo che di piani, di disegni, di progetti ne abbiate. E da amico vi accennerò soltanto che se Elton è l'uomo, credo che sarà fatica sprecata. Emma rise e fece un cenno di diniego. Egli continuò. Statene pur certa, Elton non fa il caso. Elton è un'ottima persona e un rispettabilissimo pievano di Highbury, ma non è davvero lui che farà un matrimonio imprudente. Sa meglio di tanti che cosa valga una buona rendita. Elton potrà parlare da sentimentale, ma agirà razionalmente. Sa sulla punta delle dita i propri meriti, almeno quanto voi quelli di Harriet. Sa di essere un giovanotto molto avvenente e di suscitare grandi simpatie ovunque si rechi. E dal suo modo di parlare in genere nei momenti di espansione, quando son presenti solo degli uomini, son convinto che non intende affatto di sposarsi con la prima persona che gli capita. L'ho sentito parlare con molta animazione d'una numerosa famiglia di signorine amiche delle sue sorelle, che han tutte 20.000 sterline ciascuna. «Vi sono molto obbligata», disse Emma ridendo di nuovo. «Se io avessi considerato di far sposare Harriet a Mr. Elton, sarebbe stato molto cortese aprirmi gli occhi. Ma, per il momento, voglio tenermi Harriet per me. Davvero, ho finito di combinare matrimoni. Non potrei mai sperare di ripetere il successo di Randalls. Smetterò mentre le cose van bene». «Buongiorno», disse Mr. Nagy, alzandosi e uscendo dalla stanza bruscamente. Era irritatissimo. Gli pesava il disappunto del giovanotto ed era mortificato di esserne stato la causa con l'approvazione che aveva dato. E la parte che era convinto che Emma aveva avuto nella faccenda lo esasperava oltre ogni dire. Anche Emma rimase indispettita, ma le cause del suo stato non erano così ben definite come di quello di lui. Essa non si sentiva sempre così assolutamente soddisfatta di sé, così interamente persuasa della giustezza delle proprie opinioni e del torto di quelle dell'avversario come Mr. Knightley. Costui se ne andò sentendo più completa approvazione di sé di quanta non ne lasciasse per lei. Tuttavia, essa non era così sostanzialmente abbattuta da non poter trovare un adeguato conforto nel trascorrere di un po' di tempo e del ritorno di Harriet. La lunga assenza di Harriet cominciava a preoccuparla. La turbava il pensiero della possibilità che il giovanotto si recasse da Mrs. Goddard quella mattina e incontrasse Harriet e perorasse con lei la propria causa. Il timore di un tale scacco, dopo tutto quel che era successo, divenne la sua preoccupazione principale. E quando comparve Harriet, ed ottimo umore, e senza aver da dare simili ragioni per la sua lunga assenza, Emma provò una soddisfazione che le mise l'animo in pace e la convinse che, pensasse o dicesse Mr. Knight quel che voleva, essa non aveva fatto nulla che l'amicizia di una donna e i sentimenti di una donna non potessero giustificare. Egli l'aveva un po' spaventata nei riguardi di Mr. Elton, ma quando rifletté che Mr. Knightley non poteva averlo osservato come aveva fatto lei, né con l'interesse, né questa asserzione poteva permettersela a dispetto delle pretese di Mr. Knightley, con l'abilità d'un'osservatrice di tali cose qual era lei, quando rifletté che egli aveva detto quelle parole in fretta e nell'ira, riuscì a persuadersi che aveva piuttosto detto tutto ciò che nel suo risentimento egli desiderava fosse vero, che ciò che sapeva con certezza. Poteva darsi, sì, che egli avesse sentito Mr. Elton sbottonarsi più di quanto non l'avesse mai sentito lei, e che Mr. Elton non fosse di tendenze imprudenti, irriflessive in questioni di denaro. Poteva anzi essere naturalmente piuttosto circospetto e di proposito. Ma Mr. Knightley non teneva in debito conto l'influsso d'una forte passione in contrasto con tutti i motivi di interesse. Mr. Knightley non vedeva una tale passione e, naturalmente, non ne valutava affatto le conseguenze. Ma essa la vedeva anche troppo per nutrir dubbi sulla vittoria che avrebbe ottenuto sopra ogni esitazione che una ragionevole prudenza avrebbe potuto originariamente suggerire. Ed essa era sicurissima che Mr. Elton non possedeva più d'un ragionevole, conveniente grado di prudenza. L'aspetto e il contegno allegro di Harriet si comunicarono ad Emma. Harriet tornava non per pensare a Mr. Martin, ma per parlare di Mr. Elton. Miss Nash le aveva detto qualcosa che essa ripeté immediatamente con gran piacere. Mr. Perry era stato da Mrs. Goddard per visitare una bambina malata e Miss Nash l'aveva visto ed egli aveva detto a Miss Nash che, mentre il giorno prima stava tornando dal parco di Clayton, aveva incontrato Mr. Elton e, con sua grande sorpresa, era venuto a sapere che Mr. Elton era proprio in cammino per Londra e non intendeva tornare fino all'indomani, benché quella fosse la serata del circolo del whist, a cui egli non aveva mancato prima neppure una volta. E Mr. Perry si era lagnato di ciò con lui e gli aveva detto che viltà era da parte di lui, il loro miglior giocatore, assentarsi, e aveva cercato in ogni modo di persuaderlo a rimandare il suo viaggio d'un giorno solo, ma non c'era riuscito. Mr. Elton era deciso a proseguire e aveva detto in un tono davvero tutto particolare che andava per una faccenda che non avrebbe voluto rimandare per tutto l'oro del mondo e qualcosa intorno a una commissione molto gelosa e sul fatto che egli portava un oggetto di immenso pregio. Mr. Perry non riusciva a capirlo bene, ma era certissimo che alla faccenda non doveva essere estranea una signora, e gliel'aveva detto. E Mr. Elton aveva assunto un'aria molto consapevole e sorridente, ed era ripartito al trotto, quanto mai giulivo. Miss Nash le aveva narrato tutto ciò, e aveva parlato ancora per un bel po' di Mr. Elton, e aveva detto, guardandola in modo molto significativo, che essa non pretendeva di capire che faccenda fosse quella di Mr. Elton, ma sapeva solo che la donna che Mr. Elton avesse scelto, lei la considerava la più fortunata della terra, poiché, non c'era dubbio, Mr. Elton non aveva l'eguale per bellezza e amenità. Mr. Knightley poteva litigare con lei, ma Emma non poteva litigare con se stessa. Egli era talmente irritato che passò più tempo del solito prima che venisse di nuovo a Harfield. E quando si incontrarono, il suo aspetto grave le mostrò che non l'aveva perdonata. Lei era dispiacente, ma non poteva pentirsi. Al contrario, i suoi piani e i suoi atti furono sempre più giustificati e resi a lei più cari dalle generali apparenze dei giorni che seguirono immediatamente. Il ritratto, in un'elegante cornice, fu recapitato poco dopo il ritorno di Mr. Elton e appeso che fu sul caminetto della stanza di soggiorno, egli s'alzò per guardarlo e sospirò le sue mezze frasi d'ammirazione proprio come avrebbe dovuto. E quanto ai sentimenti di Harriet, visibilmente andavano prendendo la forma d'un attaccamento così forte e costante come lo consentivano la sua gioventù e la sua specie d'animo. Emma ben presto fu assolutamente convinta che Mr. Martin non era ricordato altro che in quanto forniva un contrasto con Mr. Elton, a tutto vantaggio di quest'ultimo. Il suo piano di migliorare la mente della sua piccola amica con un bel po' di letture e di conversazione utili non aveva sinora condotto che a pochi capitoli preliminari e all'intenzione di andare innanzi l'indomani. Era assai più facile chiacchierare che studiare, molto più piacevole lasciar briglia sciolta alla sua fantasia e architettare la fortuna di Harriet che faticare ad ampliare la sua intelligenza o a esercitarla su fatti positivi. E la sola occupazione letteraria che al momento teneva impiegata Harriet, la sola provvista intellettuale che stava facendo in vista della sera della vita, era di raccogliere e di trascrivere tutti gli indovinelli d'ogni genere in cui poteva imbattersi, in un sottile inquarto di carta cilindrata messo insieme dall'amica e decorato di cifre e di trofei. In quell'epoca letteraria tali raccolte di grandi proporzioni non sono infrequenti. Miss Nash, prima maestra alla scuola di Mrs. Goddard, ne aveva scritto perlomeno 300 e Harriet, che aveva preso da lei lo spunto, sperava, con l'aiuto di Miss Woodhouse, di raccoglierne molti di più. Emma veniva in aiuto con la sua inventiva, la sua memoria e il suo gusto. E siccome Harriet aveva una leggiadrissima calligrafia, questa prometteva d'essere una compilazione di prim'ordine, sia per la forma che per la quantità. Mr. Woodhouse aveva quasi altrettanto interesse quanto le ragazze per tale lavoro e molto spesso cercava di ricordare qualcosa che valesse la pena d'essere inserito. C'erano tanti indovinelli ingegnosi quando lui era giovane. Si meravigliava di non saperli ricordare, ma sperava di riuscirvi prima o poi. E sempre finiva con «Kitty, vaga ma gelida donzella». Anche il suo buon amico Perry, a cui aveva parlato dell'argomento, non ricordava ora niente del genere degli indovinelli, ma egli aveva chiesto a Perry di stare allerta e siccome lui andava molto in giro, pensava che qualche contributo sarebbe potuto venire di lì. Non era affatto desiderio di sua figlia che gli intelletti di Ivory in genere dovessero venir messi in contribuzione. Mr. Elton fu il solo di cui richiese l'assistenza. Fu invitato a collaborare con qualunque enigma, sciarada o rebus veramente buono che egli potesse richiamare alla mente. Ed essa ebbe il piacere di vederlo concentrarsi nel tentativo di ricordare e al tempo stesso, come lei poteva scorgere, attentissimo che nulla di poco galante, nulla che non esprimesse un complimento al bel sesso, gli uscisse dalle labbra. Esse dovettero a lui i due o tre rompicapi più cortesi e la gioia e l'esultanza con le quali egli finalmente ricordò e recitò con aria piuttosto sentimentale quella ben nota sciarada. Il mio primo denota un dolore che il secondo è costretto a sentir. E il mio tutto è il rimedio migliore, quella pena a lenire e guarire. Fecero sì che Emma rimase male a riconoscere che esse l'avevano già trascritta in una delle pagine precedenti. «Non ne volete scrivere una voi stesso per noi, Mr. Elton?» disse Emma. «Sarebbe l'unica garanzia della sua novità e nulla potrebbe riuscirvi più facile». Oh no, egli non aveva scritto mai, quasi mai, nulla del genere in vita sua. Era proprio un tonto. Temeva che neanche Miss Woodhouse, si fermò un momento, o Miss Smith l'avrebbero potuto ispirare. Ma proprio il giorno seguente produsse qualche prova di ispirazione. Egli fece una capatina di pochi momenti, solo per lasciare sul tavolo un foglio contenente, a quel che diceva, una sciarada che un suo amico aveva dedicato a una giovane signora, oggetto della sua ammirazione, ma che, dai suoi modi, Emma immediatamente si convinse che doveva essere di lui. «Non l'offro per la collezione di Miss Smith», disse egli. «Siccome è del mio amico, io non ho nessun diritto di mostrarla in alcun modo all'occhio del pubblico, ma forse non vi dispiacerà di darci un'occhiata». Il discorso era diretto più a Emma che ad Harriet, cosa che Emma poté comprendere. Egli era profondamente conscio di sé e trovava più facile di incontrare l'occhio di lei che quello della sua amica. Un momento dopo che se n'era andato, dopo un altro momento di pausa, «Prendetelo», disse Emma, sorridendo e spingendo il foglio verso Harriet. «È per voi. Prendete quello che è vostro». Ma Harriet era tutta trepidante e non poteva toccarlo. Ed Emma, a cui non dispiaceva mai essere la prima, fu costretto a esaminare il foglio lei stessa. «Ah, Miss!» Sciarada. «Pompa di re dispiega il mio primiero, il fasto dei signori della terra, e il mio secondo mostra un altro impero, il monarca che doma i mari o verra. Ma qual rovescio! Chi li voglia unire, dell'uomo libertà e poter debella, della terra e del mar si curva il sire e regna sulla donna sulla bella. Dal pronto ingegno tuo l'intiero scocchi, oh, possano approvarmi i teneri occhi». Essa vi gettò gli occhi sopra, rifletté, afferrò il significato, lesse di nuovo la sciarada per essere del tutto sicura e completamente padrona dei versi, e poi, passandola a Harry, si sedette sorridendo felice e dicendo tra sé e sé, mentre Harriet si stillava il cervello sul foglio in tutta la confusione della speranza e dell'ottusità. «Bene davvero, Mr. Elton, bene davvero. Ho letto sciarade peggiori, cowship un'allusione appropriatissima. Ve ne rendo giustizia. Questo che fate è per tastare terreno. Questo dice molto chiaramente. Di grazia, Miss Smith. Datemi licenza di farvi la corte, approvate la mia sciarada e le mie intenzioni con la stessa occhiata. Oh, possono approvarmi i teneri occhi». Harriet, tale quale. Tenero è proprio la parola per l'occhio di lei, di tutti gli epiteti il più giusto che potesse trovarsi. «Dal pronto ingegno tuo». Ma il pronto ingegno di Harriet. Tanto meglio. Un uomo deve essere innamorato cotto per descriverla così. «Ah, Mr. Knightley, vorrei che vi avvantaggiaste di ciò. Credo che questo vi convincerebbe. Per una volta almeno nella vostra vita vi vedreste obbligato a confessare d'essere in errore. Proprio una sciarada eccellente e che calza a pennello. Ora le cose dovranno presto giungere al punto critico». Fu costretta a interrompere queste piacevoli riflessioni, che altrimenti erano d'un genere che sarebbe andato per le lunghe, dall'incalzare dalle perplesse domande di ieri. «Che cosa può essere, Miss Woodhouse? Che cosa può essere? Non ne ho idea, non riesco a indovinare nulla. Chi sarà mai? Cercate di trovarlo, Miss Woodhouse, aiutatemi. Non mi sono imbattuta mai in nulla di così difficile. È forse regno? Mi domando chi sia stato l'amico e chi possa essere la signorina. Credete che ci abbia azzeccato? Può essere donna? E regna sulla donna, sulla bella. Può essere Nettuno? Il monarca che doma i mari o verra. O un tridente? O una sirena? O uno squalo? Ah no, squalo è una parola troppo corta. Deve essere molto ingegnoso, se no non l'avrebbe portato. Oh, Miss Woodhouse, credete che troveremo la soluzione? Sirene e squali, sciocchette. Mia cara Erika, che cosa andate pensando? A che servirebbe che si recasse una sciarada fatta da un amico su una sirena o uno squalo? Datemi il foglio e state a sentire. A Miss. Leggete Miss Smith. Pompa di re dispiega il suo primiero, il fasto dei signori della terra. Questo è Caut, corte. E il mio secondo mostra un altro impero, il monarca che doma i mari o verra. Questo è ship, nave, più chiaro non potrebbe essere. Ed ora veniamo alla crema. Dell'uomo libertà e poter debella, della terra e del mar si curva il sire e regna sulla donna, sulla bella. Complimento appropriatissimo. Indi segue l'applicazione che, mia cara Erie, credo che capirete senza grandi difficoltà. Leggetevela a vostro conforto, non ci può essere dubbio che non sia stata scritta per voi e a voi. Harriet non poté resistere a lungo a una così lusinghiera persuasione. Lesse i versi finali e ne rimase tutta agitata e felice. Non riusciva a spiccicar parola, ma non le si chiedeva di parlare. Bastava che sentisse. Parlò Emma per lei. «C'è un significato così personale, così particolare in questo complimento», disse Emma, «che non dubito un istante circa l'intenzione di Mr. Elton. Voi siete la persona a cui mira e presto ne riceverete la prova più completa. Me l'immaginavo di non potermi ingannare, ma ora la cosa è chiara. Lo stato del suo animo è così chiaro e deciso quanto lo sono stati i miei desideri in proposito dal primo momento in cui vi ho conosciuta. Sicuro, Harriet. Per tutto questo tempo io non ho fatto che desiderare proprio la circostanza che ora si è presentata. Non sono mai riuscita ad appurare se un attaccamento tra voi e Mr. Elton sarebbe stato più desiderabile o più naturale. La sua probabilità e la sua desiderabilità si sono realmente bilanciate. Ne sono felicissima. Mi congratulo con voi, mia cara Harriet, di tutto cuore. Questo è un attaccamento che una donna può davvero andare orgogliosa d'aver creato. Questo è un partito che non offre che bene. Vi darà tutto ciò di cui abbisognate. Considerazione, indipendenza, una vera casa. Vi fisserà nel centro di tutti i vostri amici veri, vicina a Alfred e a me, e confermerà per sempre la nostra intima amicizia. Questa, Harriet, è un'unione che non potrà mai provocare un'ombra di rossore in nessuna di noi due. Cara Miss Woodhouse, cara Miss Woodhouse, fu tutto quello che Harriet, tra molti teneri abbracci, riuscì ad articolare dapprima. Ma quando giunsero a qualcosa di più vicino a una conversazione, fu abbastanza chiaro alla sua amica che Harriet vedeva, sentiva, prevedeva e ricordava proprio come avrebbe dovuto. La superiorità di Mr. Elton ebbe il più ampio riconoscimento. «Qualunque cosa diciate è sempre giusta», esclamò Harriet, «per cui suppongo e credo, e spero che sia così, ma altrimenti non avrei potuto immaginarlo. È tanto al di là dei miei meriti, Mr. Elton, che potrebbe fare il matrimonio che gli piacesse. Su di lui non ci possono essere due opinioni diverse. Egli è una persona tanto superiore. Pensate solo a quei dolci versi. Amis. Mio Dio, che bravura! Ma davvero che li abbia destinati a me? Non ammetto che si possano fare domande su questo punto. È cosa certa. Affidatevi al mio discernimento. È una specie di prologo a un dramma, di motto per un capitolo, e presto sarà seguito da prosa concreta. È una cosa d'un genere che nessuno si sarebbe aspettato. Son certa che un mese fa io non ci avrei pensato neppure. Accadono le cose più strane. Quando le Miss Smith e i Mr. Elton si conoscono, accadono davvero, e davvero è strano. È fuori dall'ordinario che quel che è così evidentemente, così manifestamente desiderabile, quello che invita i buoni uffici degli altri, debba con tanta prontezza prendere da sé la forma propria. Voi e Mr. Elton siete convocati assieme dalla vostra posizione. Appartenete uno all'altra per via di tutte le circostanze delle vostre rispettive case. la vostra unione sarà pari alle nozze a Randalls.